vorrei tanto starti vicino, coccolarti come un bambino, sfiorare le tue parti con la mia mano. Vorrei tanto starti lontano per capire quanto ti amo e gridare al mondo noi ce la faremo. Ce la faremo. Quello che gira intorno sembra ce l'abbia con noi. Gira, gira, gira il mondo, non si ferma mai. Resta con noi, resta con noi, resta con noi. Fai come vuoi. Vorrei tanto dirti balliamo, senza limiti noi ci perdiamo, e sentirmi dentro di te, piano piano. Il folgore delle mie mani, soddisfare i miei pensieri, forza resta con noi, resta se vuoi. Gira, gira, gira il mondo, non si ferma mai. Gira, gira, gira il mondo, ma senza di noi. Resta con noi, resta con noi, resta con noi. Vorrei tanto sapere cosa c'è di strano, cosa c'è di strano, cosa c'è di strano. Questa mia festa, in questa mia festa, questa mia testa, questa mia testa. Nella mia festa. Cosa c'è di strano, cosa c'è di strano? Resta. Stop.